Focus Economia. Con Deborah Rosciani. E dai che da oggi inizia la discesa, stiamo cominciando ad intravedere già la fine di questa settimana, la prima settimana del 2017. Buonasera a tutti, da Deborah Rosciani al timone di Focus Economia per questa settimana in una versione ridotta, ancora semifestiva, ma devo dire che le notizie non mancano in questo primo frangente di quest'anno. Dal punto di vista finanziario ne abbiamo molte, continuiamo a monitorare la borsa che ci suggerisce sempre storie interessanti da raccontare. Questa terza seduta dell'anno per i mercati europei vede i listini in una leggera frenata, qualche presa di profitto dopo i rialzi dei primi due giorni, meno 0,22% Parigi, meno 0,17% Francoforte, Londra meno 0,04%, Milano meno 0,10%. C'è però anche da dire che oggi qualche riflessione gli operatori l'hanno fatta anche a proposito di un dato macroeconomico europeo e soprattutto italiano che è arrivato e che suggerisce naturalmente anche di tenere sotto controllo a questo punto con un po' più di attenzione quest'anno sull'operato della Banca Centrale Europea. Cosa facciamo riferimento? Al dato sull'inflazione. È deflazione conclamata per quello che riguarda l'Italia, ne parleremo diffusamente tra un po' nel nostro primo approfondimento, mentre per quello che riguarda l'Europa tutta nel suo complesso a dicembre abbiamo un rialzo molto sostenuto dei prezzi al consumo, più 1,1% al top da tre anni a questa parte, e a questo punto si impone appunto una riflessione su questo andamento intanto differenziato in Europa dei prezzi e a questo punto anche questa fiammata di fine anno dovuta ovviamente alla componente energetica, al rialzo dei prezzi del petrolio come inevitabile appunto che accadesse, cosa suggerirà anche in termini appunto di revisione, se ci sarà, di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea. Lo sapete che l'obiettivo più importante della BCE è quello proprio del monitoraggio e controllo dell'inflazione. Il target, l'obiettivo è il 2%, molto lontano naturalmente dai livelli attuali, e però insomma se il petrolio continuerà a crescere quale sarà l'impatto sui prezzi per tutto il 2017, cosa potrà succedere, ne parleremo tra poco con un economista, facendo poi ovviamente anche l'inevitabile necessario approfondimento invece sulla situazione italiana. Tra gli altri temi di cui parleremo, torneremo a parlare appunto di settore automobilistico per le novità che Fiat sta presentando a Las Vegas, al CES, appunto al Consumer Electronics Show. È stato presentato questo primo prototipo di auto elettrica. Qualcuno parla di una novità senza particolare insomma clamore, ma ne parleremo con il nostro inviato là. Ma ci sono state anche altre notizie che riguardano Fiat e oggi, che sono arrivate da più vicino, sono arrivate proprio da Torino, perché è stato fatto un punto della situazione sulla produzione per gli stabilimenti italiani del gruppo, ma a farlo questo punto della situazione non è l'azienda, è stato il sindacato, la FIM-CISL. È ricorrente a quanto pare questo incontro in cui è il sindacato a presentare i dati sulla produzione, ma a noi ha colpito ugualmente, quindi faremo anche un ragionamento su questo. Parleremo poi, naturalmente potevamo farci mancare il tema banche oggi, no di certo, perché oggi i giornali hanno enfatizzato parecchio il fatto che slittano le nuove regole sul capitale contemplate nell'ambito di Basilea 4, 3 o 4. Gli accordi di Basilea sono quelli che disciplinano appunto i criteri con cui le banche devono stare sul mercato, sono criteri molto rigidi che hanno anche strozzato molto le banche, soprattutto quelle italiane, che sono andate in difficoltà, in tutte quelle difficoltà di cui abbiamo parlato negli ultimi anni. Ci sono andate non tanto perché sono brutte e cattive solo quelle italiane, perché c'è stata naturalmente la crisi economica, ma anche perché la nuova disciplina europea ha chiesto requisiti di capitale sempre più alti, sempre più stringenti, e al punto che le banche, per poterli rispettare, naturalmente non hanno fatto altro che chiedere soldi al mercato, fare rafforzamenti di capitale, fino a trovarsi anche la condizione in cui ci troviamo oggi. Cosa vuol dire questo fatto che slittano le nuove regole sul capitale? Pare tutto sommato alla fine anche una buona notizia, ce la faremo spiegare dal nostro collega del Sole 24 Ore, Luca Davi, che segue molto da vicino appunto tutte le vicende bancarie italiane ed anche europee. Ne abbiamo di temi dunque anche per questa sera da commentare. 349-238-6666 se volete il numero che potete comporre come sempre per inviarci degli sms o dei messaggi attraverso WhatsApp. Io direi che possiamo anche partire con le notizie in breve. Allora, Allora, abbiamo ieri fatto l'approfondimento sul petrolio che ad un certo punto della giornata aveva toccato i suoi massimi dal 2015, il Brent a Londra è arrivato a $58, il WTI americano a 55, c'è stata una correzione vistosissima che peraltro è cominciata proprio ieri mentre eravamo in diretta e oggi proseguita, il WTI americano segna adesso $52.58, per quello che riguarda il Brent di Londra siamo a $55.76 al barile. Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti che riguardano ancora le azioni di Donald Trump, che sta naturalmente provando a formare tutta la sua squadra di governo, ma non solo, anche perché il 20 gennaio si avvicina, data dell'insediamento, e quindi sempre più vicina anche l'uscita di scena di Barack Obama. Allora, Jay Clayton, avvocato di Wall Street, che ha avuto tra i propri clienti anche Goldman Sachs, Barclays Capital, sarebbe il candidato favorito a diventare il prossimo presidente della SEC, la Securities and Exchange Commission, è la Consob americana d'autorità di controllo sul mercato americano. Secondo il Wall Street Journal, la nomina potrebbe essere annunciata addirittura oggi dallo staff del presidente eletto. Clayton è attualmente partner di un grande studio legale, Sullivan & Cromwell, e prenderebbe il posto di Mary Jo White. L'avvocato aveva seguito, fra le altre cose, anche la quotazione di Alibaba Group alla borsa americana nel 2014. Alibaba è il più grande sito di e-commerce al mondo. Nel 2017 più fattori potrebbero contribuire ad una crescita più forte e più sostenibile a livello globale. Lo scrive il capo del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, alla stampa tedesca. Il Fondo Monetario ritiene che una distribuzione del reddito più equa rappresenti non solo una buona politica sociale, ma anche una buona politica economica. Il numero uno del Fondo Monetario Internazionale ha anche sottolineato che negli ultimi 20 anni il reddito del 10% più ricco della popolazione è salito del 40%, mentre i ceti più deboli quasi non guadagnano. E mentre in Italia si continua a discutere del reddito di inclusione sociale, ieri abbiamo raccontato dell'iniziativa stata preannunciata dal ministro Martina che sarebbe nelle intenzioni del governo appunto adottare, la Finlandia è diventato il primo paese europeo a regalare, tra virgolette, un reddito mensile pari a €560 ai propri cittadini disoccupati. Obiettivo dell'iniziativa, secondo quanto comunicato proprio dal governo di Helsinki, è tagliare la burocrazia, ridurre la povertà, aumentare l'occupazione. L'esperimento, perché di una sperimentazione si tratta, avviato il 1 gennaio, durerà per 2 anni, saranno 2.000 i disoccupati che riceveranno questa cifra mensile, che potranno spenderli come vorranno senza doverne rendere conto a nessuno. Eventuali altri benefit saranno detratti dalla somma. Va segnalato che il tasso di disoccupazione fra i 5 milioni e mezzo di abitanti della Finlandia in novembre è stato dell'8,1%, praticamente invariato rispetto all'anno precedente. Negli ultimi giorni abbiamo enfatizzato moltissimo l'andamento del settore manifatturiero in Europa, che è monitorato appunto dall'indice PMI manifatturiero, è risultato crescente, molto buono, e quindi insomma aveva anche questo dato spinto le borse. Oggi è stato pubblicato, sia per quello che riguarda l'Eurozona che per quello che riguarda appunto le economie del vecchio continente, l'indice PMI composito dell'Eurozona, ed è quello che si riferisce all'attività nel settore manifatturiero e dei servizi. È sempre il dato di dicembre, e per quello che riguarda appunto complessivamente l'Eurozona, anche in questo caso parliamo lo scorso mese di una situazione di risalita, 54,4 punti dai 53,9 di novembre. Anche in questo caso è un dato migliore delle attese, addirittura siamo a livello più alto da oltre 5 anni a questa parte. Dato di oggi, magari li metteremo insieme dopo il nostro primo approfondimento, fa il paio invece con il dato sull'inflazione sempre dell'Eurozona che è stato diffuso questa mattina. Abbiamo un quadro in crescita. Eurostat stima il tasso all'1,1% su base annua allo scorso mese rispetto al più 0,6% registrato a novembre. Il tasso annuale più elevato lo registra la componente energetica, più 2,5%, addirittura in novembre c'era stato un dato negativo, seguita dai servizi alimentari, alcol e tabacchi e beni industriali non energetici. Il dato è il livello più alto da settembre 2013, quando si attestò sempre all'1,1%. In Italia cosa è successo invece? Che lo scorso anno abbiamo avuto un quadro di deflazione ormai conclamata, definitiva. È la prima volta che succede da oltre mezzo secolo. Nel 2016 i prezzi al consumo, sono comunque i dati provvisori dell'Istat, hanno registrato una variazione percentuale negativa dello 0,1% come media d'anno. E appunto, dicevamo, lo rileva l'Istituto di Statistica, è dal 1959 che questo non accadeva. Per quello che riguarda invece il dato PMI servizi in Italia, abbiamo dato prima il riferimento appunto europeo, cosa ci dice invece quello italiano? Che c'è un lieve rallentamento del settore dei servizi in Italia a dicembre, in questo caso l'indice PMI o PMI, ditelo come volete, è sceso il mese scorso a 52,3 punti da 53,3 di novembre. Le stime davano un calo un po' più consistente. Il comparto è comunque in espansione per il settimo mese di fila. Il fatto che sia in espansione ce lo dice il fatto appunto che l'indice sia al di sopra dei 50 punti, che è la soglia che indica appunto l'espansione, che indica la differenza fra l'espansione e la contrazione. L'indice composto monitora l'attività sia del settore dei servizi, appunto come vi dicevo prima, che manifatturiero, e a novembre questo dato riferito al mese di dicembre, ma anche quello di novembre appunto, ci confermano che però siamo ancora sui massimi dal dicembre del 2015. Se nel pubblico impiego la contrattazione di primo livello è bloccata da anni, non è così per quella di secondo livello, in cui si decide del salario accessorio, ovvero della parte retributiva legata a premi, indennità e progressioni economiche. Nonostante i contratti integrativi siano sottoposti a vincoli precisi, nei primi sei mesi del 2016 sono stati firmati oltre 7.000 contratti. Guardando alle percentuali, l'intesa risulta essere stata raggiunta in un'amministrazione su tre, e questo è il quadro che emerge dal monitoraggio dell'ARA, nell'agenzia che rappresenta il governo nelle trattative. Ancora un paio di notizie prima di parlare di inflazione. Beh, questa è veramente divertente, vediamo quanto vi fa ridere. Addio a calze da donna e calzini da uomo per gli uscieri della regione Trentino Alto Adige. Immaginavo, se non ricordavo male, che le notizie un po' frufru, come le chiamiamo noi, andassero nella parte finale della settimana, verso il venerdì. Oggi invece la redazione me le ha anticipate. Insomma, un nuovo regolamento prevede tagli severi appunto in questo settore, lo scrive il quotidiano, che naturalmente non è un pronuncio, Tageszeitung immagino che sia, e la presidenza appunto di Arno Kontascher è intervenuta con tagli anche in questo settore, con una delibera che è stata appunto promulgata, deliberata il 21 dicembre del 2016. Se prima di questa presidenza uscieri e autisti, oltre che delle divise d'ordinanza, venivano riforniti anche di calze, di calzini, cinture, di maglioni, qua la spending review è diventata d'obbligo, d'ora in avanti questi abiti se li dovranno procurare da sé. Un taglio, scrive sempre il quotidiano, è stato anche operato sull'uniforme di gala, e sono cadute appunto a causa della spending review anche le scarpe a spese del contribuente. Il regolamento, lo racconta sempre il giornale, prevede delle prescrizioni precise: le scarpe, anche se sono acquistate in proprio, dovranno comunque essere rigorosamente di colore nero, quindi attenzione allo stile appunto adottato in Trentino Alto Adige da molti funzionari pubblici, qua da quello che capisco, dagli usceri in particolar modo della regione. Parliamo invece di un altro settore che va sempre molto bene in Italia, parliamo del vino Made in Italy, che conquista nel 2016 la leadership mondiale nella produzione con circa 50 milioni di ettolitri e aumenta del 3% il valore dell'export, che raggiunge a questo punto il suo massimo storico di sempre a 5,2 miliardi. Lo racconta la Coldiretti, che evidenzia che il vino è nel 2016 la prima voce dell'export agroalimentare nazionale. Il primato produttivo davanti alla Francia nel 2016 è dovuto alla crescita in Veneto, che si conferma la principale regione produttrice, ma anche in Emilia-Romagna e Piemonte. Si stima che la produzione Made in Italy è rappresentata per oltre il 40% dai 332 vini a denominazione di origine controllata e ai 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita, per il 30% ai 118 vini a indicazione geografica tipica riconosciuti in Italia, il restante 30% a vini da tavola. Sorprendente il successo del vino tricolore in casa degli altri principali produttori, con, pensate, gli acquisti che stanno crescendo in Francia, che ha visto aumentare le importazioni appunto di vino italiano del 5%, Stati Uniti più 3%, Australia più 14%, ma ci comprano anche dalla Spagna con una crescita di un punto percentuale. Nel paese transalpino, in Francia, la patria dello champagne, è lo spumante tricolore a fare addirittura segnare un incremento a doppia cifra pari a più 57%. Insomma, il settore vino in Italia continua a rappresentare un motore economico che genera quasi 10 miliardi di fatturato solo dalla vendita del vino e che dà opportunità di lavoro nella filiera a 1.300.000 persone. Roberta, per le notizie in breve è tutto, direi di andare al primo approfondimento di oggi. Allora, come vi dicevo, il primo approfondimento oggi è il tema inflazione. Inflazione che riprende a salire in Europa. Abbiamo il dato di dicembre, più 1,1% al massimo da 3 anni, appunto, secondo le anticipazioni di Eurostat. In Italia le cose vanno in maniera completamente diversa, perché nel 2016 invece il nostro paese archivia un dato riferito ai prezzi al consumo negativo, meno 0,1%, in questo caso l'anticipazione appunto dell'Istat, non è ancora il dato definitivo, ma in ogni caso non si aveva una variazione negativa media annuale dal 1959, quando la flessione in condizioni economiche evidentemente radicalmente diverse fu pari al meno 0,4%. E allora cosa ci suggerisce questo scenario che si è palesato questa mattina? Ce lo spiega il professor Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buonasera e buon anno, professore. Buonasera e buon anno. Grazie per essere con noi. Allora, ci dicono, e ce lo dite spesso anche voi economisti, che in realtà, soprattutto alla luce anche di quanto sta accadendo da qualche anno a questa parte, un po' di inflazione per indicare anche una ripresa dell'economia è necessaria, e dall'altra parte però si enfatizza invece una situazione appunto un po' complicata per l'Italia. Mettendo insieme tutti i dati che ho dato io fino ad ora, professor Daveri, ci indichi subito dove abbiamo delle buone notizie fra queste cifre, dove invece abbiamo delle notizie meno buone. Dunque, in realtà il trend dell'Italia non è poi tanto diverso da quello del resto dell'Europa, perché per negli ultimi mesi del 2016, e soprattutto in effetti per il dato di dicembre la cosa più evidente, siamo tornati a una crescita positiva dell'inflazione, dopo che per tanto tempo, per vari mesi, per tutto il 2016, i prezzi erano scesi anziché salire, sia pure marginalmente rispetto ai 12 mesi precedenti. E la differenza consiste sostanzialmente in una sola variabile, oggi rispetto a ieri, e l'andamento dei prezzi dei prodotti energetici. In pratica, la riduzione del prezzo del petrolio, che era cominciata già nel 2015, sostanzialmente che è arrivata a essere per tutti i prodotti energetici nel loro complesso dell'8% rispetto all'anno prima, controbilanciava invece una certa, inizialmente una stabilità e poi una certa ripresa dell'inflazione in altri comparti, a cominciare con quello dei servizi, in cui i prezzi non sono mai scesi. E questo poi bisogna tornarci dopo, cioè non si capisce se è una buona o una cattiva notizia. Ecco, cioè da un lato che i prezzi salgano vuol dire che ci si riduce il potere d'acquisto, quindi no, poi anche l'accordo con l'OPEC per liberare i tetti produttivi è stato lungamente ricercato, per cui non è che ci possiamo sorprendere adesso del fatto che la componente energetica stia spiccando il volo, no? No, infatti, quindi quello che è successo adesso è che c'è stata un'inversione di tendenza nel prezzo dei prodotti energetici, e quindi così come il prezzo del petrolio, dopo aver raggiunto il minimo di $27 al barile ormai parecchi mesi fa, ora è ritornato a veleggiare tra i 40 e i $50, qualche cosa di più, questo inevitabilmente prima o poi si traduce anche in un aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ma anche dei prezzi collegati con l'energia, quindi i trasporti prima di tutto, che infatti certo è la voce che fa segnare un numero più evidentemente positivo nel paniere dei prodotti italiani. Insomma, quindi ecco, esatto, italiani. Allora dobbiamo enfatizzare il ruolo svolto dall'aumento dei corsi appunto del petrolio e dei prezzi dell'energia, però professor D'Averino, in questi giorni abbiamo dato anche altri indicatori. In Europa a dicembre, per quello che riguarda l'inflazione, appunto dicevamo tocchiamo il top da 3 anni, ma sono stati diffusi anche tutti gli indicatori, anticipavo anche prima, lo ricordavo perché il dato l'abbiamo dato ieri, sull'andamento del comparto manifatturiero e considerando tutte le economie europee, Francia e Germania in particolare, modo in Italia siamo un pochino più indietro, ma siamo comunque al top da giugno dell'anno scorso, abbiamo dei livelli record da qualche anno a questa parte, per cui mi chiedo, accompagnando il dato sull'andamento del comparto manifatturiero e i dati appunto di dicembre, di novembre e dicembre sull'inflazione, secondo lei siamo anche a qualche segnale di svolta per l'economia di tutta l'Eurozona, adesso a prescindere, depurando il nostro ragionamento dalla faccenda energetica sulla quale abbiamo già ragionato? Eravamo ad un punto di caduta talmente basso che non si può che ricominciare a salire, anche questi elementi lo dimostrano? No, non c'è mai, cioè, limite al peggio, potenzialmente si potrebbe anche scendere, però per fortuna invece quello che viene fuori dai dati dell'economia, e questo poi potrà essere smentito da eventuali cattive notizie sul fronte politico, cioè se l'Eurozona dovesse venire a crollare perché, che ne so, in Francia vince la signora Le Pen, allora a questo punto è chiaro che gli scenari economici con cui avremmo a che fare potrebbero essere molto diversi, però per il momento, e questo mi sembra che sia condiviso anche dall'andamento dei mercati, mi pare che la prospettiva sia di un'aspettativa di un 2017 con una crescita economica che si rafforza, a cominciare dal settore manifatturiero, ma non solo nel settore manifatturiero, e quindi che diventa un po' più diffusa tra settori. Questo è un altro aspetto importante, perché in realtà la ripresa c'è già dal 2015, però prima era una cosa, soprattutto in Italia, e finora è stata una cosa molto a macchia di zappato, cioè c'erano alcuni settori, non so, l'automobilistico, che andava bene, cresce a 2 cifre, abbiamo sentito anche in questi giorni che di fatto i dati sono molto positivi, però erano, inizialmente si potevano contare sulle dita quasi di una sola mano i settori che avevano ricominciato ad andare bene, il farmaceutico ha continuato ad andare bene negli anni scorsi e certamente anche tra i settori che continuano ad andare molto bene anche in questo periodo, però pian piano i numeri positivi cominciano a diventare di più, si conta il numero dei settori che vanno bene e quindi questo ci segnala che, siccome aumenta questo numero di settori che vanno meglio rispetto ai 12 mesi precedenti, che l'economia di fatto ha ricominciato ad andare bene, chiaramente non con cifre di cui si possa stappare tante delle bottiglie di spumante del vino di cui parlavo prima. Esatto. però insomma non ci sputerei assolutamente sopra. Senta, professor D'Averi, allora l'inflazione italiana, abbiamo la deflazione conclamata per quello che riguarda il 2016 per la prima volta da un sacco di anni a questa parte, e questo naturalmente sarà il titolo dei giornali di domani. La fiammatina di dicembre non è irrilevante, più 0,5%, però appunto imputabile, dicevamo anche in questo caso, anche per quello che riguarda l'Italia, alla componente energetica. Quindi possiamo parlare di un'inflazione buona, di un'altra meno buona, ma secondo lei cosa ci suggerisce questa fotografia sul 2016 è riferita appunto all'Italia? Come deve correre di pari un'adeguata politica economica? Dobbiamo fare qualcosa di trampiano per sollecitare un'inflazione buona in Italia? Beh, no, di buono c'è che comunque Trump avrà tanti effetti non solo economici, naturalmente con le sue politiche, però dal punto di vista dell'economia degli Stati Uniti che accelerano sono una buona notizia per l'Europa, per l'Italia nel suo complesso, quindi in un certo senso ci basta che Trump ce l'abbiano loro, non è detto che dobbiamo adottare politiche che sono di deficit pubblico aumentato, anzi l'Italia dovrebbe proprio astenersi dal fare questo dato il nostro livello di debito pubblico, quindi ci fa piacere che keynesiani siano gli altri, perché così almeno possiamo beneficiare della maggior ripresa, dovrebbe essere la Germania più keynesiana di quanto lo è stata fino adesso, e che lo siano gli Stati Uniti anziché ridurre il loro deficit, che lo aumentino ancora un po', non c'è niente di male, anzi è una buona notizia per l'economia mondiale nel suo complesso, che alla fine del 2017, tanto per cambiare, beneficerà della solita locomotiva che sarà l'economia americana, come è già stato anche in passato, mentre sul fronte dei paesi emergenti avremo probabilmente alcune notizie cattive che arriveranno, perché un dollaro che si rafforza tenderà a far salire il peso del debito estero sui paesi emergenti più gravemente indebitati, certo, spesso non sono in valuta straniera e a tassi variabili, quindi se salgono i tassi e se questi debiti sono fatti in dollari, un dollaro che vale di più vuol dire che diventa più pesante il mercato, l'onere del debito. Riequilibria. Professor Daveri, grazie per essere stato con noi, non facciamo in tempo appunto ad andare ad altri argomenti, magari ne approfitteremo prossimamente, perché in realtà quello che ci interessava capire se a questo punto, un pochino con questi dati di dicembre, anche la Banca Centrale Europea magari modificherà i suoi orientamenti di politica monetaria per l'anno prossimo. Detto questo, è ancora troppo presto per dirlo, grazie, a presto, buon anno. Grazie a voi. Abbiamo adesso la nostra pausa, poi torniamo in borsa. Intanto vi dico, se mai vi foste appassionati a questa notizia, che Donald Trump ha confermato che Jay Clayton sarà il prossimo presidente della SEC, della Securities and Exchange Commission, al posto di Mary Jo White, quindi quella che prima avevamo dato come l'indiscrezione più diffusa oggi sui giornali americani, viene adesso appunto confermata dallo staff del presidente americano. Pubblicità, tra poco parliamo di banche. Focus Economia. Allora, intanto Milano si sta avviando a chiudere la sua seduta al momento con un rialzo dello 0,08%, abbiamo però sempre gli aggiustamenti e le aste degli ultimi minuti, per cui aspettiamo di dare il bilancio finale. Intanto ne approfittiamo di Luca Davi del Sole 24 Ore, che passava di qua e quindi ha pensato di fermarsi davanti al nostro microfono, quasi perché non vedeva l'ora di raccontarci che cosa è successo a Basilea 3/4, perché Basilea in realtà 3/4, esatto, abbiamo una transizione, stiamo, no? Stiamo passando verso andando verso Basilea 4, allora, e veniamo dal 3. Che cos'è l'impianto di Basilea? Sono tutte quelle regole che hanno stretto anche un po' di cappio al collo delle banche in questi anni, no? Tutte quelle regole che vorrebbero portare una regolamentazione europea della disciplina bancaria. Io cerco di sintetizzarlo, sì, ovviamente, sì, per i nostri ascoltatori, e che però hanno imposto anche tanti sacrifici al sistema bancario. E se ci troviamo nella condizione in cui ci troviamo oggi anche in Italia, anche le regole di Basilea hanno la loro responsabilità. Quindi il fatto che slittino queste nuove regole sulle capitali, come titola oggi il Sole 24 Ore, è stata salutata appunto questa notizia anche con qualche balzo di borsa in più a Piazza Affari. Cos'è successo, Luca? Allora, il set di regole di Basilea 4, quello che conosciamo come Basilea 4, è la riforma della vecchia Basilea 3, cioè di quel set di regole che è servito sostanzialmente per ribilanciare la crisi finanziaria del 2008, per rendere più sicure le banche. Quindi si attendeva per questo weekend, proprio quello del 7 all'8, l'avallo, l'ok, l'approvazione a questa nuova mole di regole, e però evidentemente non si è arrivati a un punto finale, a un accordo. Questo set di regole dovrebbe aumentare i requisiti prudenziali, quindi l'ammontare del gap patrimoniale delle banche a 850 miliardi, quindi servirebbe una marea di soldi, insomma, per le banche. 850 sono riferiti su tutte le banche europee. Esattamente, tutte le banche europee dovrebbero aumentare le loro dotazioni patrimoniali di oltre 800 miliardi. Insomma, è una richiesta gigantesca in una fase in cui l'Europa arranca, in cui la crisi economica si sente e in cui già le banche fanno di tutto per stare in equilibrio e stare sulle loro banche, sulle loro gambe. Bene, a questo punto quindi si è deciso evidentemente di mandare la palla avanti, quando probabilmente a marzo, si vedrà nei prossimi tempi. Ma dietro questa scelta di rimandare, di rinviare tutto, probabilmente c'è anche Donald Trump pure qua. Esattamente, come citavate anche prima, c'è probabilmente da trovare un accordo politico, perché come al solito poi le questioni tecniche sono soprattutto di tipo politico. Perché? Perché le banche americane evidentemente devono ancora capire esattamente dove Trump vuole andare. Trump è sempre stato per un ammorbidimento, diciamo una propensione verso una maggiore deregulation. Per fortuna che dicevano che Hillary Clinton era compromessa con Wall Street, invece arriva lui e poi... Sicuramente lui, probabilmente, almeno così ha dichiarato prima sostanzialmente della vittoria, comunque sempre stata a favore di una di un ammorbidimento delle regole del settore finanziario, sia per le banche sia per le società finanziarie. Quindi a questo punto le banche, la stessa Fed deve capire esattamente dove si sta andando, e quindi in questo quadro probabilmente si sta cercando di fermare un attimo la grande questione delle regole. Dietro ovviamente a, come dicevamo, a una questione di tipo tecnico, cioè si sta cercando di capire dove porre l'asticella ovviamente delle richieste patrimoniali. Perché? Perché le banche europee sono tendenzialmente molto più propense a fare mutui immobiliari, e qua ad esempio c'è la lotta delle banche francesi e tedesche, in particolare del nord Europa, che hanno una grande propensione a fare mutui immobiliari e hanno un basso accantonamento di capitale per questa rischiosità, per questi crediti ritenuti rischiosi. Al contrario invece le banche americane pur facendo tanti mutui, tendenzialmente tendono a... Accantonano per proteggersi? Per sì, tutelarsi. Ma soprattutto cedono, poi cartolarizzano, cedono certo. Questi mutui. Quindi la loro rischiosità su questo fronte, che è proprio quello del rischio cosiddetto di credito, è piuttosto bassa. Mm-hmm. Ed è su questo punto che si sta cercando di trovare. Sì, anche se poi questo meccanismo qua è stato anche alla base dello scoppio della crisi mutua subprime nel 2008, per cui forse per quello oggi si vuole controllare un po' meglio anche tutto questo meccanismo. Assolutamente. Come e quindi gestito. Probabilmente si sta cercando di trovare un accordo proprio tra la posizione europea, che ovviamente è sostenuta soprattutto dalla Francia e dalla Germania e ovviamente anche dall'Italia in qualche modo in seconda linea, ma noi abbiamo un impatto forse più contenuto, potenzialmente più contenuto, perché si parla soprattutto di banche che hanno i cosiddetti modelli interni, insomma è una questione tecnica, ma non tutte le banche verrebbero impattate pesantemente da questa riforma. E quindi bisogna capire se l'Europa troverà un accordo con gli Stati Uniti su questo punto. Lo si capirà probabilmente nei prossimi mesi e, come dicevamo prima, probabilmente entro marzo, perché proprio nelle prossime settimane forse il Comitato di Basilea troverà, insomma, o cercherà di trovare ovviamente un accordo anche con Trump sostanzialmente. Intanto ecco quello che mi piaceva segnalare, che questa decisione di questo rinvio delle nuove regole sul capitale Basilea 3/4 è stata presa dal GOSE, che è il gruppo dei governatori e dei capi della vigilanza delle principali banche centrali del mondo, un'istituzione che è presieduta da Mario Draghi. Assolutamente sì, ecco. Ma Mario Draghi ovviamente che è in qualità di presidente della Banca Centrale Europea, ma in realtà perché tutto il Comitato di Basilea è colui che è il soggetto che sostanzialmente emana queste linee guida su indicazione del G20 e ancora prima subito dopo del Financial Stability Board, per definire tutte le regole che a livello globale tutte le banche devono seguire e poi recepire ovviamente nelle singole regolamentazioni. Nel complesso possiamo fare un bilancio per le banche italiane, è stata una buona notizia questa, sicuramente, Luca? Sicuramente il rinvio è ovviamente una buona notizia, perché sostanzialmente si manda la palla avanti, e visto che si parla di un'ulteriore stretta regolatoria, ovviamente è una buona notizia. È importante non dormire sugli allori, perché difficilmente, secondo me, Donato Masciandaro nel commento di stamattina sul Sole dice: un'occasione da non sprecare per l'Europa tutta. È sicuramente un'occasione per almeno sfruttare questo tempo e trovare un accordo migliore rispetto a quello attuale. Luca, notizie di Monte dei Paschi oggi ne abbiamo? Siamo in attesa di capire cosa succederà nelle prossime settimane. Vabbè, che risposta democristiana. Lo so, purtroppo ci vuole ancora un po' di tempo, però sicuramente. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Allora, adesso intanto è tempo di raccontarvi finalmente la giornata di borsa. Oggi abbiamo spostato di qualche minuto un po' in avanti il nostro aggiornamento. Per quale motivo? Perché naturalmente nei giorni scorsi lo facevamo sempre talmente a ridosso delle 17.30 che non davamo mai le variazioni percentuali definitive corrette, per cui abbiamo fatto respirare abbastanza i colleghi di Radio Corri del Sole 24 Ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera. Allora, intanto, peraltro, e lo segnalano anche degli ascoltatori, non ho dato la variazione percentuale di Wall Street. Oggi Dow Jones è più 0,2%, Standard & Poor's addirittura in rialzo di mezzo punto. Oggi il mercato americano aspetta i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, quella riunione in cui, Andrea, c'è stato il tanto sospirato aumento dei tassi di interesse, il primo dalla fine del 2015. Sì, esattamente, quindi diciamo che difficilmente arriveranno indicazioni ulteriori, perché la Fed era stata molto esplicita su quella che poteva essere la strategia della sua politica monetaria nel corso del 2017. Quindi difficilmente appunto potrebbero esserci delle novità, ma è sempre un indicatore importante, anche perché sono le indicazioni che arrivano a pochi giorni dall'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, e quindi il mercato attende, soprattutto in un periodo in cui non ci sono altri segnalatori macroeconomici importanti. Allora andiamo a Milano, intanto le borse europee le vedo proprio inchiodate sullo zero, una seduta incolore, senza infamia e senza lode. Per Milano invece uno scattino sul finale che la porta a chiudere la seduta con un rialzo dello 0,27%, ma è stata indecisa per quasi tutta la giornata Milano, vero Andrea? Sì, assolutamente, è stata a lungo anche sotto la parità, poi Wall Street aveva permesso un attimino di respirare, ma diciamo che in generale Milano riesce a confermare quelli che sono i valori massimi dell'ultimo anno e quindi sostanzialmente conferma quelle che sono le valutazioni arrivate all'inizio, i livelli raggiunti all'inizio del 2020. 2017 nelle prime sedute, ancora banche in evidenza, con qualche piccola eccezione Viper e Unicredit, ma soprattutto molto bene Ferragamo, che è stata la migliore di banca della giornata. Allora raccontiamo la storia di Ferragamo, perché in realtà il titolo sta correndo della Maison da qualche giorno. Oggi abbiamo, adesso ce lo racconterai, una raccomandazione positiva appunto di un gruppo di analisti molto rilevante, ma in realtà è la patent box che ha fatto bene a Salvatore Ferragamo da qualche giorno, Andrea. Sì, è stato quello il fattore che ha, diciamo, fatto partire il titolo, che comunque si trova già a dei livelli importanti, perché siamo sui livelli massimi del 2016 in area 23 euro, e sopra questa soglia si va indietro fino al meglio, diciamo così, ai livelli massimi da novembre 2015. Ma era proprio l'annuncio dell'azienda dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate sullo schema generale del patent box, cioè è un regime di tassazione fiscale agevolato, esatto, che sfrutta la proprietà intellettuale, i diritti di proprietà intellettuale. Si è molto complicato, quindi, però si applica soprattutto alle aziende con brevetti e con prodotti di proprietà industriale e intellettuale. Questo accordo di 5 anni è stato ben accolto dal mercato e dagli analisti, ha rimesso attenzione su questo titolo, e poi tu, come ricordavi, anche i broker e alcune case di investimento, guardando all'andamento del 2016 e alle prospettive per il 2017, hanno dato fiducia a questo titolo. Allora, intanto sul finale, Salvatore Ferragamo è stata per quasi tutta la giornata la miglior società appunto a Milano. Sul finale invece è scavalcata da UbiBanca, ce lo diceva prima Andrea Fontana, più 4,55% per il gruppo bancario guidato da Victor Massi. Salvatore Ferragamo più 4,17, Banca Mediolanum più 3,60, Italgas più 1,65, il Banco BPM il terzo giorno consecutivo di rialzo, anche se oggi ci ha provato un pochino a correggere, Andrea, poi invece sul finale riporta a casa anche oggi 1,5%. Sì, Banco Popolare, Banco BPM, scusate, sono fermo ancora a 2016, ma effettivamente ha molto da recuperare questo titolo. Ricordiamo che all'annuncio della fusione in marzo 2016 le due banche insieme capitalizzavano 5,5 miliardi di euro. È vero che avevano anche beneficiato delle voci e quindi un po' della speculazione in vista della fusione. Adesso siamo intorno ai 4,2 miliardi di euro di capitalizzazione, quindi hanno ancora molto da recuperare, ma mostrano appunto una buona tenuta, anche per le indicazioni che sono arrivate poi ieri nel pomeriggio sullo slittamento di Basilea 4, quindi un minore rischio regolatorio per l'intero settore bancario, che quindi in particolare in Italia non ha accusato una battuta d'arresto delle prese di beneficio oggi, e anche a livello europeo è stato positivo, perché l'indice dei bancari ha guadagnato lo 0,3%. Allora, tra un po' andiamo in pausa, ancora un minuto, Andrea, solo per raccontarci magari le principali storie che hanno avuto oggi un andamento negativo, male gli energetici, c'è stato anche STM un po' traballante, da dove vuoi cominciare? Beh, S&P ha pagato una raccomandazione negativa di Morgan Stanley per quanto riguarda gli energetici. Ha detto the game is over, il rally è finito per adesso, tornate un pochino indietro, il titolo aveva raggiunto già i suoi top a fine dicembre, se non ricordo male. È stato il migliore del FTSE MIB nel 2016, ha guadagnato oltre il 70%, si muoveva sui massimi. È chiaro che in un'ottica generale anche di rotazione delle scelte e dei portafogli di investimento da parte dei grandi investitori, è una correzione che ci sta e che era attesa, e quindi che parte anche con una valutazione esplicita da parte di Morgan Stanley. Al di là di questo settore c'è stata una correzione anche degli energetici, perché abbiamo visto la correzione che è avvenuta per il petrolio, che è ritornato sotto i $53 al barile a New York, una correzione che si è esplicitata soprattutto su Saipem, che nelle ultime settimane è stata a lungo la migliore del listino milanese, mentre sul finale poi Eni per esempio ha saputo recuperare, ha chiuso in rialzo dello 0,4%. Andrea, grazie per essere stato con noi, buona serata, ci sentiamo prossimamente. Intanto segnala agli ascoltatori i migliori e peggiori in assoluto: Gequity più 32%, Ross più 20,8%, Banca Profilo più 20%, Sintesi più 16,4%, Vita Società Editoriale più 14%, i peggiori Novatec meno 10%, Industria e Innovazione meno 4,9%, Casta Diva Group meno 4,63%. Per i titoli a maggiore capitalizzazione in SEPA Saipem segnaliamo Brembo meno 2, Moncler meno 1,7, Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,6, CNH Industrial meno 1,32. Cosa ha fatto Fiat? Più 0,7% a Piazza Affari. Cosa fa invece negli Stati Uniti in queste ore? Ve lo raccontiamo tra poco. Focus Economia. Ed eccoci insieme per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, oggi lo abbiamo preannunciato tante volte in questi giorni, taglio del nastro ufficiale a Las Vegas per il CES 2017, il Consumer Electronics Show, è la fiera dedicata al mondo dell'elettronica. L'edizione del 2017 porta in dote il sempre più forte connubio fra settore automobilistico e quello dell'elettronica di consumo, con la partecipazione delle principali case costruttrici, appunto, automobilistiche. Quest'anno la fiera vede la partecipazione di 3.800 espositori con innovazioni nei settori più di tendenza, la domotica, l'automotive, con le grandi case automobilistiche appunto sempre più protagoniste. Infatti è stato fatto anche l'annuncio di Fiat Chrysler, che ha portato non ancora sul mercato appunto, ma ha presentato il prototipo di questo minivan totalmente elettrico con 400 km di autonomia, che dovrebbe incorporare anche i frutti più recenti della collaborazione con Google. Ma ci racconta tutto l'inviato a Las Vegas, Andrea Malan, del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera e buongiorno per te. Buonasera a tutti, sono quasi le 9 del mattino. Preso il cappuccio. No, peraltro, quello che volevo anche raccontare agli ascoltatori è che immaginano sempre delle vite straordinarie dei nostri inviati a queste manifestazioni. Ma Andrea, vuoi raccontarlo tu, che là le conferenze stampa, le presentazioni delle iniziative, ce ne sono a centinaia in tutta la giornata e cominciano tipo le 6:30, 7 del mattino. Siete convocati voi giornalisti prestissimo, se volete andare a prendere notizie ovviamente interessanti e di prima mano. Sì, assolutamente, non vorrei assolutamente con gli ascoltatori fare quello che si lamenta del tipo di vita, perché no, è di molto peggio. No, però diciamo, sono dei giorni intensi. Sono in questo caso sono intensi, sì, la prima conferenza stampa alle 6 del mattino, l'ultima tipo alle 4 del pomeriggio, poi ovviamente a con scrivere, il fuso orario, ecco. Noi siamo 9 ore indietro rispetto all'Italia, quindi per noi italiani è un po' complicato, ma come dicevo c'è di molto peggio. Comunque, assolutamente. Come hai detto tu, dici di Fiat, sì, del minivan elettrico. Allora, ieri Fiat ha presentato questo prototipo, che è più un esercizio di stile che una vettura pronta alla messa in produzione. Tra l'altro è stato significativo il fatto che non ci fosse non solo Sergio Marchionne, ma nessuno dei top manager, neanche americani, di Chrysler. C'erano quattro ragazzi di una trentina d'anni, ingegneri, che hanno partecipato al progetto, che ne hanno raccontato vari aspetti. Come hai detto tu, è un'auto elettrica con potenzialità anche tra l'altro di guida autonoma, sia pure non a livello di autonomia totale. È un oggetto che a Detroit, probabilmente la settimana prossima, quando ci saranno i manager, ci sarà anche lo stesso Marchionne, ci diranno se e quando verrà prodotto. Non è neanche detto che lo sia. Ricordiamo a questo proposito che Marchionne e Fiat sono stati finora tra i più scettici rispetto alle potenzialità delle auto elettriche, almeno allo stato attuale della tecnologia e delle capacità di questi veicoli, oltre che della disponibilità di infrastrutture per la ricarica, che ricordiamo resta il problema più grosso. Certo. Per cui diciamo che conviene sospendere il giudizio almeno fino alla fine della settimana prossima, quando ci sposteremo a Detroit per il salone, quello dell'auto vera e propria. È qui... ovvio che anche qua, prego. No, vai, poi era una curiosità, vai. Sì, diciamo che oggi per esempio ci saranno conferenze anche di Toyota e di Hyundai, c'è stata di BMW, domani parlerà Carlos Ghosn di Nissan. Ormai l'auto sta gravitando sempre di più verso l'elettronica. Qualcuno l'anno scorso aveva addirittura detto che l'auto del futuro sarà un telefonino su quattro ruote. Vabbè, diciamo io non ci entro, anche... io non ci entro dentro, non so se tu ce la puoi fare, ma vabbè, comunque aspettiamo anche questa novità. Assolutamente. No, intanto stavo guardando, Andrea, che i dati sulle immatricolazioni di auto negli Stati Uniti a dicembre per Fiat Chrysler vedono un calo di circa il 10% rispetto allo stesso mese dell'anno appunto precedente. Ci sono dei commenti anche rispetto a questo negli Stati Uniti? Allora, cos'è successo? Fiat Chrysler ha chiuso, ricordiamo, l'intero anno, in 12 mesi praticamente in pari rispetto all'anno prima. Gli ultimi 2-3 mesi hanno visto dei cali abbastanza forti dovuti a due cose. Uno, al fatto che è stata interrotta la produzione di alcune berline come la Chrysler 200 o la Dodge Dart, che non vendevano molto e secondo Marchionne erano poco profittevoli. Il secondo punto è che sono state ridotte le vendite a flotte, quindi agli autonoleggi, eccetera, che sono tradizionalmente un canale facile, ma un canale anche poco profittevole perché bisogna fare dei grandi sconti. Vedremo a fine mese, quando Fiat presenterà i conti dell'ultimo trimestre, che tipo di impatto hanno avuto queste decisioni sui conti appunto trimestrali e quindi dell'intero 2016. Il grande dubbio naturalmente è adesso, finita il 2017, come andrà il mercato, se dal record del 2016 previsto per il mercato americano si andrà ancora in su o come forse più probabile ci sarà una stabilità. Dipenderà molto, come tutti possono immaginare, anche dalle decisioni e dalle politiche di Donald Trump, che è stato insediato alla Casa Bianca. Infatti lì volevo arrivare, Andrea. Allora, tu vai direttamente a Detroit dopo Las Vegas o ritorni in Italia e poi ti arrivai in America? No, vado direttamente a Detroit. Vai a Detroit. Diciamo, il salone inizia già domenica pomeriggio. Ecco. Vai quindi Michigan, vai a controllare se appunto la Ford ha intenzione di mantenere la sua promessa di non fare più quel famoso investimento da 1,6 miliardi di dollari in Messico, ma di trasferirla appunto in Michigan per la costruzione appunto di suoi nuovi modelli. Detto questo, è stato il grande tema di questi giorni, che hanno appunto consentito a Trump di rilasciare alla stampa le sue ennesime sortite protezionistiche. Il livello del dibattito in questo momento su questo argomento com'è lì negli Stati Uniti, Andrea? Beh, diciamo che la notizia di Ford dovrebbe essere sicura. Secondo me i costruttori di auto, tra questi ci metto anche Fiat Chrysler, stanno tentando di capire esattamente fino a che punto Trump vorrà mettere in atto questi suoi programmi protezionistici. Ford ha dato un segnale di disponibilità. Diciamo due cose. Innanzitutto, i costruttori avranno probabilmente un grosso vantaggio all'arrivo di Trump, nel senso che è probabile che gli standard ecologici, le limitazioni ai consumi, la riduzione delle emissioni inquinanti che Obama ha perseguito verranno, se non abbandonati, almeno molto ridotti, quindi con un vantaggio per le case che dovranno investire meno e su tempi più diluiti. Questo è un vantaggio già incassato. Per quanto riguarda il protezionismo e le limitazioni alla possibilità di produrre in Messico, che ricordiamo non ha dazi con gli Stati Uniti grazie al trattato NAFTA, il problema è che la produzione è estremamente integrata, cioè anche un'auto prodotta negli Stati Uniti ha una quantità di componenti che arrivano dal Messico che può essere significativa. Certo, non è che puoi demolire tutto questo circuito. Esatto. Ovvio, Smontare tutto questo circuito alla lunga danneggerebbe anche gli stessi posti di lavoro americani, e credo che è questo che le case automobilistiche cercheranno di far capire al presidente. Esatto, che parli con un po' più di cautela. Grazie Andrea, buon lavoro. Gli ultimi due minuti di tempo, sempre rimanendo sulle vicende di Fiat, le dedichiamo a Filomena Greco, il Sole 24 Ore da Torino. Filomena, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti. Perché a noi oggi ha colpito molto questa notizia di questo bilancio rilasciato a Torino sulla produzione record per gli stabilimenti italiani del gruppo. Sono state superate appunto, è stata superata la soglia di 1 milione di unità, compresi i furgoni, adesso ci racconterai tutto, ma il tema è che questa iniziativa di divulgazione di questi dati è stata presa dal sindacato, dalla FIM CISL. A me aveva sorpreso molto, poi ho chiamato Filomena e lei mi ha detto: ma no, guarda che lo fanno abitualmente. È vero? Sta diventando una consuetudine che in qualche maniera ripara una mancanza di informazioni, nel senso che Fiat Chrysler ha tradizionalmente non ha mai rilasciato i dati diciamo precisi sulle singole produzioni dei singoli stabilimenti. Siccome gli italiani siamo appassionati di auto e anche dei nostri stabilimenti auto, Fiat Chrysler in Italia, no? Ce ne siamo occupati, ce ne occupiamo da anni perché la produzione di auto è fondamentale, e quindi nel corso degli anni si è andata radicando questa che è diventata ormai una consuetudine, per cui i dati sulla produzione di auto passo passo vengono in qualche maniera, arrivano da fonte sindacale invece che da fonte aziendale. Questo è un po' il quadro. Allora Filomena, tra un 40 secondi devo chiudere, facci una fotografia dei dati più importanti che sono stati dati, che sono stati forniti. Fotografia velocissima, l'anno nero per l'Italia è stato il 2013, rispetto al 2013 abbiamo recuperato circa l'80% in più di produzione auto, il 70% se si considerano anche i veicoli commerciali. L'aumento rispetto invece all'anno 2015, quindi 2016 rispetto al 2015 è stato dell'8,2%, quindi c'è un recupero netto delle produzioni made in Italy, con ancora alcuni nodi industriali critici su alcune aree, per esempio Pomigliano, Mirafiori e anche lo stesso stabilimento di Melfi in particolare, dove la produzione della Grande Punto sta lentamente calando. Buone notizie, mi pare che siano state diffuse anche sull'occupazione. 2016 sì. Com'è andato? Sì. L'occupazione è cresciuta in questi anni, sebbene ci siano anche ancora, anche sul fronte dell'occupazione, ci sia un tema di ammortizzatori sociali in alcuni stabilimenti. La prospettiva nel 2017 è un recupero netto su Cassino e alcuni nodi che invece restano, grazie, che dovranno essere risolti con nuove produzioni. Grazie, grazie a Filomena Greco da Torino. Intanto rapidamente abbiamo chiuso anche questa sera Focus Economia, ma torniamo domani. Buona serata a tutti. Radio 24, libera la voglia di fare.